storie denoaltri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari e Antonio Ceccato. Cari ascoltatori, buonasera. Buonasera da Gesi e da Antonio. Oh, stasera abbiamo due ospiti illustri, sai Antonio? Questa è una cosa che mi fa molto piacere. Due ospiti che sono già stati da noi e spero che vengano ancora per diverse volte, per diverso tempo. Allora, ti do la parola perché... Allora ringraziamo e un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici su Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Il nostro indirizzo internet è www.bluradioveneto.it. Il numero di telefono per SMS, per consigli, proposte, suggerimenti o quant'altro è il 346 23 20 033. È anche possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione, senza dimenticare naturalmente un cordiale saluto al nostro regista. Allora, un saluto al nostro Eddie. Oh, stasera abbiamo due, come ho detto prima, allora prima avremo il dottor Tony Basso e poi avremo l'architetto Giorgio Fantin. Però prima di tutto incominciamo con una canzone. Bah, stasera è una canzone un po' particolare ed è intitolata Stornelli Veneti, cantata da Umberto Barcato. La la la la la la la la la la la la. Fior dei funghetti, si sa che i veronesi si dei matti e quei di Vicenza fuoretti. I conosciamo come magnagatti, fior dei funghetti, corbineo e baccarà, verzinteccia soffegà. Fior dei bimbo, parlomo che sia un vecchio paragon, se ogni becco in testa ga un lampion, ga un lampion, pensava voi che gran illuminazione. Fior dei bimbo, corbineo e baccarà, verzinteccia soffegà. Fior dei cipresso, sei trevisani ca il radicchio rosso e i bellunesi fa qualche strambesso, strambesso, di rovigotti tutti che n'ha un gosso. Fior dei cipresso, corbineo e baccarà, benzinteggia soffegà. Fior dei farina, mi go sposa una donna di Verona, poaretta, e saria anche tanto buona. Tanto buona, se noi a barru fasse ogni mattina. Fior de farina, corbine e baccalà, verzinteggia soffegà. Fior de geranio, e padovane sogna il matrimonio, e quando e trova chi che gli va genio, va genio, e porta una candea a Sant'Antonio. Fior de geranio, corbineo e baccarà, verzinteccia soffegà. Fiore de gelso, e a donna de rispetto si de giasso, non serve a niente fargli un coco esso, coco esso, se come te ciucciassi un caenasso. Fiore de gelso. Eccoci di nuovo in studio. E è arrivato il primo ospite della serata, che è il dottor Tony Basso. Buonasera dottore. Buonasera dottore. Dopo più di un mese che sono passate le feste, però insomma lo stesso le chiedo come le ha passate. Beh insomma non ci... Ecco, va bene. Non bisogna lamentarsi, non bisogna. Chissà che sia un anno... Sì, ce lo auguriamo tutti ce quanti. Ce lo auguriamo. Ce n'è di bisogno. Veramente sì. con la crisi che stiamo vivendo. Vabbè, speriamo in bene. Io qualche volta sono ottimista. Dottore, stasera di che cosa ci parla? Beh, parleremo della Treviso medievale, di quella che è scaturita dall'arrivo e dell'insediamento in città dei, non solo dei nobili, dei cavalieri che abitavano nei castelli del territorio, ma anche di tutto quello che si sono portati dietro, gli armigeri, i familiari, i servi, e tutti gli artigiani e tutte le persone che lavoravano alla loro corte. questa Treviso medievale, che è una città più grande di quella, cioè ha bisogno di uno spazio maggiore, la popolazione che arriva a costituire la comunità cittadina, di quello tracciato, di quello che era la configurazione della città romana, il cui territorio era segnato dai corsi d'acqua che sono sempre stati, sia in epoca romana sia dopo, successivamente in epoca veneziana, sono stati i fili conduttori del tracciato perimetrale della città. Allora la città romana aveva il suo apice a nord, dove adesso c'è grosso modo il ponte de Pria, e i corsi d'acqua, quindi il canale della Roggia, che poi arrivato dalle parti del vecchio tribunale piega di circa 90 gradi e prende il nome di Siletto, va verso il corso e sfocia nel Sile attraverso quel tratto che si chiama le Scorzerie. A sud il confine della città romana era rappresentato dal Sile, a levante era rappresentato dal Cagnan, il Cagnan grande, il Cagnan della pescheria, che tuttora è visibile e riscontrabile, che anche quello va a finire poi nel Sile. Questa è la città romana. L'ampliamento della città avviene sia a nord, sia a nord-ovest, sia a est e anche a sud. Allora a ponente c'è lo spostamento del confine dal canale Roggia-Siletto fin al canale del Cantarane, cosiddetto del Cantarane, canale oggi pressoché irriconoscibile perché in parte è depauperato della falda d'acqua che aveva una volta, ma che comunque correva lungo il margine del cortile delle scuole De Amicis, imboccava l'attuale via San Liberale, e lo si vede ancora verso la fine davanti alla vecchia sede della provincia, e poi girava lungo il viale Cesare Battisti, costeggiando le ville e la strada, per immettersi nella fossa esterna in corrispondenza della Porta Calvi. Questo è il confine occidentale. Il confine invece orientale si è spostato lungo quello che chiamiamo il canale delle Convertite. Canale delle Convertite, che è presso anche questo poco visibile, comunque lo si vede molto bene perché costeggia la via San Girolamo Emiliani, passa dietro la chiesa di Santa Maria Maggiore e va a sfociare in corrispondenza del torrione dove ci sono le scuole Prati, e prende acqua da un corso che non si vede perché passa sotto la piazza Matteotti, il borgo Mazzini, va fino alla chiesa di Santa Maria Maddalena, tagliandone una parte, per cui la chiesa si trova, l'altar maggiore si trova nella zona extraurbana, in quella che era la vecchia zona extraurbana, mentre il resto della chiesa si trova all'interno di quello. La chiesa naturalmente a quell'epoca non c'era, ma è come punto di riferimento, e poi da là, sempre passando sotto, va a prendere acqua in prossimità dalla fossa esterna della porta di San Tommaso, attraversando quindi il largo Burchellati. Ecco, questo è l'allargamento che si ha dai due lati, e poi c'è un allargamento verso sud che corrisponde al tracciamento delle mura in corrispondenza del canale delle Convertite, cioè quello che prende acqua da vicino al Genio Civile, dal Sile, e arriva davanti alla stazione, lambisce il torrione, la porta Altinia, e poi va a raggiungere, costeggiando il viale Fratelli Bandiera, e va ad immettersi in corrispondenza del Sile all'altezza della via Venier. Questa parte viene quindi ulteriormente ingrandita, ma rimane per lungo tempo una zona che viene o occupata da due monasteri, che sarà quello degli eremitani di Santa Margherita e quello di San Paolo, che poi sarebbe diventato il distretto militare, che adesso dovrebbe diventare sede universitaria, non so. Mentre la parte più verso la stazione era rimasta una zona, una specie di campo, un campo dove si facevano delle esercitazioni militari, e quindi è stata chiamata anche la zona del bersaglio, la piazza che c'è. Una volta lì era chiamata appunto la piazza Bersaglio, e di fronte, dove c'è grosso modo il complesso degli edifici dell'autostazione, lì, vicino al Ponte San Martino. Vicino al Ponte San Martino, lì c'era il castello, e lì venne poi anche costruita in epoca, nel secolo scorso, venne costruita la borsa merci, che andò distrutta durante il bombardamento del 1944, 24. E lì c'era la caserma dei bombardieri di San Marco, e c'era anche una chiesetta dedicata appunto a San Marco, patrono di questo gruppo di militari messi dalla Repubblica Veneta. Che non c'entra niente con la chiesa di San Martino, c'era già la chiesa di San Martino. La chiesa di San Martino era all'interno della città, perché si trova nella zona del ponte, a nord del fiume Sile, e quindi è una zona che già era apparteneva alla città romana, e quindi la sua destinazione, la chiesa di San Martino, è una delle più vecchie chiese di Treviso, era, perché quella che c'è adesso è stata ricostruita dopo l'ultima guerra, e c'era un ospizio lì, un ospizio che si presentava quindi anche a favore di tutti coloro che arrivavano dal sud, da fuori città e che avevano bisogno di essere curati e assistiti. Gli ospedali nascono a Treviso intorno, proprio nell'epoca medievale, in quelle che sono definite le Domus Dei, cioè le case di Dio, mentre le chiese sono le Domus Ecclesiae, cioè le case dell'assemblea. È interessante questa definizione medievale che si trova nell'indicare l'ospedale come casa di Dio e la chiesa come casa dell'assemblea. In Francia ancora l'Hôtel Dieu è l'ospedale, è l'espressione per indicare l'ospedale. Mi pare che sia molto significativo anche nel fatto di dire che insomma Dio abita dappertutto, non abita solamente dentro alle mura della chiesa, abita nella coscienza di ciascuno, in particolare dove c'è sofferenza, e abita fisicamente là dove c'è la sofferenza. Esatto. E gli ospedali nascono proprio in questo contesto della città medievale, ad iniziativa degli ordini religiosi e di confraternite che si dedicano a questo servizio. Il grande ospedale poi dei Battuti nasce proprio per a San Leonardo, nasce proprio per l'iniziativa di questa confraternita di persone che si percuotevano in segno di penitenza con dei flagelli, e lo stemma ancora dell'ospedale di Treviso è rappresentato da un frustino che, con il quale questi confratelli durante le pubbliche processioni si percuotevano per condividere in questa sofferenza fisica la figura di Cristo sofferente. Un rituale riportato anche in altri luoghi, in altre nazioni. Sì, certamente, però non si limitavano però soltanto a questo, ma si dedicavano poi anche a tutte le opere di assistenza, non solo ai malati, ma anche agli orfani, ai pellegrini, alle vedove, tutta l'assistenza. Lo scopo istituzionale era quello, sì. È nata dagli ordini religiosi ed è nata proprio nel Medioevo, in questo periodo. Quindi l'ospedale di San Leonardo si chiamava Santa Maria dei Battuti. Sì, mi pare. Sì, è chiamato per tanto tempo Santa Maria dei Battuti, e soltanto in epoca nel Novecento che ha preso il nome della moglie del re Vittorio Emanuele III, si chiama ospedale Elena di Savoia. Poi, e adesso chi addirittura si chiama Cafoncello, vabbè, non so. Beh, non si chiama Cafoncello, si chiama ospedale regionale. Ah. Non dice il nome, che non dice niente, ma dice tutto, così ha perso la sua identità storica, è andata perduta con le sigle ULS 9, così. Sì, c'è un po' un impoverimento dal punto di vista storico. Sì, c'è una perdita, sì. E soprattutto c'è quello che dispiace è che si siano perdute o non si dedichi sufficiente attenzione a tutelare la memoria storica di quello che è stato l'ospedale di San Leonardo. Pensate che c'è una lapide là che ricorda dei lavori che sono stati fatti per chi entra da San Leonardo, attraversa il cortile, dopo la fontana c'è l'edificio che è quello che poi si affaccia sulla riviera, e lì c'è questo ospedale, c'è questa lapide che ricorda che era proprio luogo di ricovero dei malati, nosocomium è la parola con quale è definito, ma che è stato accuratamente ripulito e reso illeggibile questa lapide, perché siccome dovevano vendere gli appartamenti, vedere questo ricordo... Questa è proprio una rimozione che è tipica del nostro tempo. Purtroppo, questo è un dramma, anche perché è indice, a parte di scarso rispetto, ma anche di incapacità di leggere praticamente la storia, ed è una fonte dei nostri guai attuali, mi pare, certo. Anche una delle principali, insomma, ecco. Siamo un popolo smemorato, purtroppo, e quello evidentemente chi non ha, come dire, memoria per il passato rischia di andare a sbattere nel futuro, mi pare che sia condivisibile. Addirittura si è, per esempio, il fatto di chiamare Palazzo dei 300, appunto. Quello che non è mai stata la sede dell'assemblea comunale, anche questa è un errore ottocentesco che è stato commesso, perché i 300, cioè l'amministrazione, i nobili che amministravano la città di Treviso, si riunivano in un altro edificio che sorgeva all'angolo tra la via Indipendenza e la piazza Aldo Moro, dove adesso c'è una banca. Ma quindi non c'era questo Palazzo dei 300? No, il Palazzo dei 300, ma non era... Il palazzo di come si chiamava? Era il Palazzo della Ragione, come ancora si chiama a Padova, a Vicenza, cioè il luogo dove si dà ragione o torto ai contendenti, quindi era il tribunale, era la sede del tribunale, e a questo tribunale accedevano coloro che avevano delle liti, dei contenziosi, si presentavano là, il salone. Sedevano i giudici, che non erano in piccoli uffici seminati lungo un grande palazzo, ma erano in questo unico salone. C'erano degli spazi a ridosso delle pareti del salone, che erano i banchi, e lì davanti al banco si presentavano i contendenti, e il banco era identificato non dal nome del magistrato che ci sedeva dietro, ma da uno stemma che era di solito rappresentato da un animale, e in modo che anche l'analfabeta sapeva che doveva presentarsi al banco del leone, al banco del cammello, al banco dell'elefante. E di questi segni ci sono ancora le tracce per chi entra nel salone di 300, nella parte che non è stata distrutta dalla guerra si vedono ancora questi segni, e si presentavano lì per presentare le proprie esigenze, in modo che rimaneva il banco del leone, era quello, anche se dopo il magistrato andava in pensione e subentrava un altro. Una turnazione così non implicava la sostituzione del marchio, diciamo, ecco, anche questo, diciamo, è un marchio ante litteram. Ecco, nell'Ottocento si è voluto così nobilitare il palazzo e chiamarlo Palazzo di 300. Quindi, un falso storico. Sì, sono i falsi storici, come tanti altri. Come ce tanti ne altri, sono, effettivamente. Questa povera gente che veniva dalla campagna, doveva, che arrivava coi carri, con carrozze, doveva arrivare presto. Potevano arrivare anche alla notte, o addirittura la sera prima potevano arrivare, e avevano necessità di rendersi presentabili davanti al giudice. Appunto. Quindi se avevano la barba incolta, se avevano da lavarsi, da pulirsi, perché certamente, figurarsi se facevano la strada col fango che ci poteva essere, e anche la polvere, e quindi andava. E allora si è pensato di creare una serie di botteghe di barbieri in una zona vicina al Palazzo della Ragione, sì. E questa strada porta ancora il nome di Via Barberia in ossequio a questa attività che veniva svolta in questa sede. Che adesso poi mi pare c'è all'inizio di Via Barberia c'è il Canton dei 4S. Sì, beh, quella è una... La cosa è sopravvenuta dopo, insomma. Sì, sì, ecco. Sì, erano qui, siamo studenti senza soldi. Soldi, sì, sì. Ma quella risale ad epoche moderne. Ah, molto più epoche moderne, va bene. Oh, anche stasera è arrivato il tempo di salutarci e intanto grazie, perché io... Ripeto sempre, queste per me sono lezioni chiacchierate, lei, ecco, sì, come sì. Vuol dire, sì, sì, però sono anche lezioni, perché appunto si imparano delle cose che chiaramente se uno non le studia, non le sa sicuramente. Ecco, comunque noi la ringraziamo e l'aspettiamo alla prossima volta. Grazie, grazie, buona serata. A sentirci. Allora ringraziamo di nuovo il dottor Tony Basso, che come sempre ci allieta con le sue notizie storiche riguardanti la città di Treviso. E procediamo con la seconda canzone in programma, che è cantata da Riccardo Fogli ed è Io voglio vivere. Come ieri semplici ad inventare la felicità fatta di noi, di momenti magici che senza te certo non vivrei. Non c'è per noi niente di impossibile, non si possa conquistare. La ricchezza è quella intima, è l'amore che la dà. Io voglio vincere, Ci ha raggiunto in studio adesso l'architetto Giorgio Fantin. Caro architetto, buonasera. Giorgio, buonasera. Buonasera. Buonasera, bentornato. Ho fatto vacanza. Come ho detto prima, ci fa sempre un grande piacere. Che ci allieterà della sua presenza ancora per diverse volte. Ma vedremo, se mi chiamate io un fischio e accorro. Benissimo, benissimo. Allora, stasera ci parlerà un po' della tradizione del carnevale. Sì. Ecco. Ma vorrei quasi iniziare con Carnevale di febbraio. Quest'anno viene basso e basta. Però ho sentito la canzone di prima, sì, e che parlava dei Verge Sofregae. Sì. E noi, qualche anno che la facciamo, è una festa della merla, di giorni della merla, che sono gli ultimi giorni di gennaio col freddo, e quest'anno l'abbiamo fatta il giorno 30 dal freddo. I giorni della merla, ghemo magna quasi una usada, insomma. E là era che era il verse soffegare, brodetto de verse, era la cipolla arrostita e anche il verse arrostito, che provavamo il verse arrostito, non mi piaceva. Niente pointe bacalà? No, era qua a pointe e ne ha dato il formaggio di pecora, ne ha dato pointe abbrustolata e il formaggio di pecora. Tutto carne praticamente, insomma, sì, musetto a ossada, già naturalmente, che questo è molto tutta roba, sì, molto leggera, sì, leggerissima, perché sì, io insegnavo a tutti quanti, alla fine se lei beve un po' di brodo con un po' di creme dentro, è siccome che non avesse mai niente, devo scominciare un'altra volta a mangiare. Ah. E mi aveva insegnato, mi diceva, trucco anche questo, che fase, ma un trucco sarà i nostri vecchi, che ne ha... è una specie di digestivo, sì, è un digestivo, ma proprio che passa tutto, sì, sì. Allora, e stasera, fra parentesi, mi tocca andare a mangiare una usata, poi pasta e fagioli. Sempre molto leggero. Sempre molto sul Monteo. Mi tocca. E qua la canzone, appunto, diceva con Poente Baccarà. Belli anche sti stornelli veneti. Bellissimi. È vero, non li avevo mai scoperti. Si scopre sempre qualcosa. Vabbè, allora parliamo un po' del carnevale, che quest'anno finisce il 21. Però il giovedì grasso è una festa che poi vi dirò. Praticamente che è stata il giorno della Candelora, è il 2 di febbraio. D'inverno siamo fora, vero? E siamo fora. È proprio già il proverbio della Candelora. Perché? Perché mi ricordo una volta, quando avevo una figlia, siamo andati a trovare una zia a Castagnole. Si è indignata con noi perché dopo 20 giorni avevamo la bambina sulla cesta. E dice: mi stavo 40 giorni in camera senza neanche venire basso. 40 giorni stavo dentro in camera quando che nasceva il figlio. Una volta era così. E la Candelora era la ripresa delle donne che tornava in chiesa, e era quasi purificata, chissà cosa, portando un cielo alla Madonna. E c'è una tradizione che bisognerebbe anche... Sembrano passati secoli, passati anni, secoli. Mi dico 30 anni, 40 anni, mi sembrano secoli, insomma. Però dicono anche che se piove tira vento, dell'inverno siamo dentro. Beh, piovere non ha piovuto per la Candelora, però vento tanto. Tanto vento. È freddo. E vuol dire che abbiamo freddo allora. Sì. Per forza, se continui i giorni di merla, andiamo avanti. Sì, sì. Ecco, e poi vorrei, prima di parlare sempre del carnevale, proprio domenica, che sarà oggi, comincia il torneo delle sei nazioni di rugby. Io ho giocato a rugby, non ho mai giocato in nazionale, sono arrivato a fare riserve o meno con la B e con gli universitari, però è un torneo che adesso accende anche il piacere del pubblico, insomma, cioè è diventato un po' di moda questo sport, forse perché è ancora primitivo, forse perché non ci sono recinzioni, forse perché nessuno che siga l'arbitro, perché il rispetto, diciamo, delle regole. È il terzo tempo che non altri, anche il tempo nostro ne bastava solo il terzo tempo, perché era solo mangiare e basta, esatto, insomma. E dopo arriviamo a San Valentino, che è la festa a San Valentino, non altri nella chiesa di Sant'Agostino. Facciamo ogni anno la Sagrita, come la facciamo Santa Rita, come la facciamo San Martino, come la facciamo a San Liberale, Beato Erico, Santa Lucia, queste sagrite tradizionali trevigiane. E perciò sta festa di innamorati, che non sarebbe un tempo mio, non era la festa dei innamorati, era per la chiave, per l'epilessia. La chiave benedetta si prendeva, io le faccio benedire e tanti mi chiedono le chiavi, perché era contro a quasi aprire lo scrigno a questi bambini, insomma, che epilettici, insomma. Sì, sì, quindi esiste ancora questa cosa di epilessia, insomma. L'ho sentita dire anch'io, però, da questa cosa, che San Valentino è il protettore dell'epilessia. Eh sì, è nato proprio come il protettore dell'epilessia. E a quel tempo là, che io sono nato proprio là, a 20 metri da Sant'Agostino, mi sono imbattuto su una persona che per terra girava, epilettico, insomma. E fa un po' ricordi brutti, insomma. E invece che avevamo il carnevale, finalmente il carnevale, che si apre a Treviso. Quell'anno scorso noi abbiamo aiutato un po' il comune, anzi noi abbiamo collaborato al comune per fare una festa dei bambini sotto la loggia di Cavalieri, dando di giocattoli, facendo vedere delle maschere nostre trevigiane e venete, e veneziane soprattutto. Quest'anno manca un po' di soldi, perciò mi diceva il dottor Giovanin che sono in mano a Giampella delle Giostre in piazza, e faranno 3 giorni di spettacolo per i bambini, invitandoli a partecipare e magari a divertirsi, insomma, ecco, questo è il discorso. In Piazza dei Signori? In Piazza dei Signori, sì. Noi invece, io ho proposto di fare dei veglioni il giovedì grasso, cominciamo a aprirlo sto carnevale, no? Una volta si facevano i veglioni al Teatro Comunale, quando era nostro, era anche per noi poveretti, non soltanto per quelli della musica, c'era il veglione della musica, il veglione dei bancari, il veglione della stampa, a cavalchina di studenti nostra, settoriale proprio, insomma. Il veglioncino per i bambini la domenica, insomma c'era una settimana di festa trevigiana. E adesso noi genitori invece accompagniamo i nostri figli in maschera, ma noi, io vorrei suggerire che tutti si mettessimo in maschera e ci divertiamo tutti sono assieme. Sono simpatiche, insomma, le maschere. Sì. Sono simpatiche, basta che una mascherina, basta un cappello, basta un qualche cosa, un fazzoletto. Sì, sì, qualcosa di diverso. E allora presso il circolo ufficiale facciamo un veglione in maschera. Anche quest'anno? Quest'anno cominciamo a fare giovedì grasso. Bello. Quindi l'inizio di una ripresa di una tradizione. Ripresa. E che cosa fate? Nell'ottica vostra, naturalmente. Facciamo mangiando in piedi, abbiamo un'orchestrina con Spinelli, che è il figlio del notaio, sono gli amici, suonano e balliamo, mangiamo, beviamo, ci sediamo, a mezzanotte ci sarà agli olio e peperoncini, e dopo a mezzanotte casa comincerebbe già la quaresima o no? Prima del mezzanotte. Prima no, è vero che è giovedì grasso, non è martedì. Diciamo che tutto nell'ottica di una ripresa praticamente di uno spirito diverso, di uno stile di vita di diverso. Ecco. Perché anche agli studenti, cioè, che a volte noi si aspettava l'anno per il carnevale a Calacchini Studenti, con gli smocchi di mio papà rigirare, con tutti quanti farsi vedere. Cioè, era il primo approccio, insomma, la scuola ci dava per trovarsi con dei ragazzi, insomma. Io ricordo che quando ero bambina era molto in uso lo spettacolo dei burattini. Anche i burattini, adesso è la figlia del Cason che va avanti con i burattini e la Prisogni, cose sono attività praticamente che mantengono con grande fatica. Comunque il burattinaio era bravissimo, perché parlava tutti i dialetti, il dialetto piemontese. Ma quanti anni ha lei che è qui a Treviso? Se ricorda Ciceri Ciaceri? No, ma io non sono di Treviso. No, ma appunto, ma quanti anni ha Treviso? Tanti. Perché mi sono andato a fotografarlo. Da quando mi sono Marinelli, sposata. Si chiama Marinelli. Sì. E era a San Giuseppe, là, per gli anziani di San Giuseppe, e chiamavamo Ciceri Ciaceri, no? Dove Maronette faceva il buffo per strada, e poi il buffone, il giocoliere, un pochettino. Sì, che sapevano farlo molto bene. Cioè, io sono qui a Treviso da tanti anni, da quando mi sono sposata, però i burattini mi ricordo che andavo a vederli a Mantova. Era una festa per me. Bene, ci fermiamo un momentino per ascoltarci un'altra canzone e poi riprendiamo. Allora, la terza canzone è cantata da Irene Grandi e da Alessandro Gasman, Qualche stupido ti amo. Difficile mondo non sia altro che una frase tra le tante che si dicono. Rimugino parole estremamente intelligenti come piacciono a me. E aspetto che la sera mi procuri l'atmosfera per offrirle a te. Ma vuoi che sia la luna il tuo profumo che io sento vicinissimo? Inevitabilmente mi impappino in qualche stupido ti amo. Ritorniamo in studio con l'architetto Fantin per conoscere qualcosa delle tradizioni carnascialesche trevisane. Carnascialesche non posso raccontare tutte quelle vecchie che abbiamo passato, perché siamo qua 2 giorni e mezzo e forse anche di più. Però quest'anno io cercherò proprio che di invitarli. Ho invitato già il comune a proibire la vendita e l'uso delle bombolette. Perché sì, l'anno scorso siamo venuti con un gruppo di maschere bellissime del circolo di Santa Maria delle Rovere e cioè, mi mostrai i vestiti e la macchia rimane. Loro stanno facendo tutto, si fanno i vestiti, le scarpe, le parrucche, i bastoni. È un patrimonio. Sì. E verrebbero volentieri, preferiscono andare a Venezia perché sanno che a Venezia hanno proibito l'uso delle bombolette. Allora mi piacerebbe domenica ancora faremo un veglione dello sport fra tutti gli sportivi che c'è a Treviso, ci troveremo tutti assieme. Però il martedì grasso, ultimo di carnevale, deve essere una festa non soltanto per i bambini con i carri mascherati, deve essere per noi anche grandi, perché i nostri genitori ci portavano a vedere i carri, erano loro in primis che si divertivano. Avevano le compagnie, papà mio era di canottieri, con una fotografia enorme, tutti in maschera, vestiti e cose. Ed era una cosa, sono stati anni, mai se passai. A me piacevano i coriandoli, le stelle filanti. Sì, quell'esplosione di follia colorata, sì, praticamente. Sì, sì. Ma c'è il discorso che è anche bello vedere i nostri figli, i nostri ragazzi vestirsi, finché non succede mai grazie, insomma. E questo è il dramma della deriva della cosa. E allora vorremmo che, se fosse anche di genitori, partecipi al carnevale e si anche custodi del modo di vivere, di esserci e di divertirsi, insomma, certo. Questo è il discorso. Quindi quest'anno ci saranno i carri ancora, no? Come solito? Sì, c'è sempre Carlo Bagliana che dà una mano, anzi è lui che... Direttore artistico, mi pare. Che li ricerca, che vanno a vedere insieme con l'assessore De Checchi, vanno a vedere i carri e poi li scelgono i 10, 12, 15, non so, tutti quelli 20 che saranno, e vanno nei vari paesi. Invece sarebbe bello anche un carro trevigiano far parlare di sé. Una volta c'erano i canottieri che si facevano. Esatto, dagli ultime edizioni mi pare che non ci si vengono, sono tutti i foresti. Bagliana è foresta un caiù, da Serraglia, e ora sarà il cammino a tutti sui vari paesi. Dici, adesso scherzo, perché magari se mi sente... E poi naturalmente anche trovare degli argomenti di satira, eccetera, dovrebbero essere abbastanza. Sono partecipi, perché nei piccoli paesi sono tutti amici, sono più amici, no? esce col mail, si trova, e tutti che la vuole lavorare per esatto. per farsi vedere. Sì, sì. E nelle piccole comunità effettivamente esiste sempre questo sì. senso di appartenenza. Li fanno in tutti i paesi, beh, in quelli piccoli penso di no, ma insomma in quei paesi grandi, Conegliano, Vittorio. Sì, sì, manca, sì, manca quelli piccoli. Anche quelli piccoli, Musestre per esempio. Sì. Musestre, Casiere, sì, sì, esatto. Pregasio li fanno, sì. E dopo la sera... E poi c'è, si ferma tutti quanti perché c'è uno spettacolo, no, c'è spettacolo di carri, tutti si ferma a salutare Gentilini, perché dopo scende giù dal palco, va a salutarli, e ora c'è tutta una forma di consuetudine. Una cosa coreografica, e diciamo. E finito, ecco. No, dopo tornano indietro perché vengono premiati i carri e basta. Noi invece continuiamo ad andare... Poi come continuate? Poi? A mangiare fino a mezzanotte, meno un minuto. Non verde verde soffregare. È quello che troviamo, non attimaiamo tutto, siamo di bocca buona. Non avete particolari esigenze, basta che sia tanta roba buona e da mangiare. Sì, sì. Verde sì. soffregare sarebbero quelle in teccia, insomma. In teccia, sì, in teccia, sì. Voi qui a Treviso mettete aceto anche? Qualcuno mette aceto, io non metto aceto. Ma parecchi piace, è come il cream, tanti sì. mettono aceto, io invece quello con l'olio me lo sento più forte ancora, insomma. Ah sì? Sì. No, noi le facciamo proprio, le facevamo perché adesso non so, è tanto che non, ma le cucinavamo con l'aceto e dentro ci mettevamo della salsiccia. Ah beh, salsicce, ma cioè costesini, salsicce, proprio che fresse soffregate, cioè sì, il massimo del piatto che si è anche attraversato. Se adesso morte, insomma. È solo Mantovano, allora. Non è solo Mantovano. No, no, certamente. Ma ci sarà qualcosa di un po' diverso, ma insomma, tira e moe è sempre quella, insomma. È sì, una cultura gastronomica che accomuna le civiltà contadine. L'uccisione del maiale, sì, per forza, accomuna tutto. Quindi voi, mezzanotte meno un minuto, anche se avete finite, basta, chiuso. No, stiamo ancora a caso, ma c'è qualcuno che parla, la compagnia, qualcuno sì, che la fa le carte, qualcuno sì. che beve ancora, ma non si può più, ma entriamo nell'ordine del giorno delle ceneri. Esattamente. Ah, sì. Mi sbaglio o una volta facevano i carri anche di domenica e anche di martedì a Treviso? Da che io ricordi il martedì grasso sì, lo facevano dappertutto perché raccoglieva anche i carri da fuori, perché generalmente fino alla domenica erano i vari paesi che la facevano, esatto. I carri, insomma. Però io ricordi in effetti che lei mi dice ancora anni 60 sì, che, 63 60, 60 anni sì. 60 sì, perché i nostri trevigiani o i paesi vicini qui a noi, non so, Canizzano sì. Le frazioni o anche Dosson magari cosa, avevano pronto il carro e poi alla domenica facevano una sfilata, ma era in tono minore. Ah, non era una grande il martedì, sì, il martedì grasso, no, sì. Del martedì ultimo del carnevale, esatto. Comunque sì, una volta i carri erano, mamma mia, andavano tutti in piazza, adesso mi sembra un pochino meno, o no? Beh, siamo sì, noi genitori che dovevamo andare in piazza vestiti in maschera e ora si divertiamo con noi. Questa invece è l'innovazione, accompagniamo solo i nostri figli che sta e guarda che compriamo il giocato e avanti col Cristo. Sì. Allora, visto che si parla di maschere, io avrei qui una poesia in dialetto scritta dal poeta trevigiano Emilio Gallina. Mm. E pensi che io ho imparato a leggere le poesie in dialetto proprio per il mio amico Emilio Gallina, che non mi ero mai cimentata a leggere poesie in dialetto, anche perché non essendo trevigiana ho fatto un po' di fatica sì, però insomma ce l'ho fatta, ecco. Bene. Allora leggiamo Ultimo dì de Carneval. Anquò go cercà tra e tante a to maschera colombina, una mascheretta furba che me tenta con caldo sorriso, una mascheretta maliziosa che mi burla con mate promesse, una mascheretta deliziosa che se dà, che se tol, in te un sogo che d'amor ti imbriaga, in te un sogo che d'amor te sfinisce, in te un sogo d'amor che non vorria mai che il finisse. Bellissima. Grande Emilia. Ma no, ben letta da signora, signora perché proprio con bella intonazione, sì, con belle pause, certo, bellissima. Sì. Complimenti. Sì, e complimenti al nostro Emilio. Che... Eh sì, Emilio è sempre forte. Sempre. Emilio, a proposito di sempre di carnevale, ho trovato una alla Casa Piavone perché così, una mostra da vedere sulle maschere, durerà 2 anni, che seco. Quello di del Bellumato lo ha impostato parfum brutta, cattiva, penetrante, sì, che sono maschere tutte di legno, per esempio di alta montagna, che sono orribili, sì. Ma ha impegnato tutto quanto il piano sopra del Casa Piavone e è una cosa da vedere, i vestiti e tante altre robe, insomma. Bene, adesso ci ascoltiamo la quarta canzone in programma, che è cantata da Giovanotti ed è Quando sarò vecchio. Quando sarò vecchio, sarò vecchio, nessuno dovrà più venirmi a rompere i coglioni. Quello che avrò fatto lo avrò fatto, vorrò soltanto stare a ricordare i giorni buoni. Molti che conosco saranno morti, sepolti sotto metri di irriconoscenza. Me ne starò vecchio a ricordare che non ho ringraziato mai a sufficienza chi mi regalò qualche rima baciata, chi mi ha fatto stare bene una serata, chi mi ha raccontato qualche bella storia anche se non era vera. Quando sarò vecchio di quelli che nessuno vuole avere intorno, perché ha visto tutto e ha fatto tutto e non sopporta quelli che ora è il loro turno. Mi rispetteranno come si rispetta il tempo che separa lo studio dall'esame. Spero di esser sazio dei miei giorni, eviterà il mio sguardo chi c'ha ancora fame. Nella notte ascolterò disteso la goccia inesorabile di un lavandino che scandisce il tempo come un assassino, come un assassino. E poi magari un sabato di maggio ad una stella chiederò un passaggio e a tutti i prepotenti dirò ancora con me voi non l'avrete vinta mai. E poi una domenica mattina ancora sulla pelle il tuo profumo, a tutti i prepotenti dirò forte con me voi non l'avrete vinta mai. Quando sarò vecchio, di sbagli inevitabili ne avrò fatti 200. E per quelli che io ho fatto apposta, non starò certo lì a offrir risarcimento. Se non sarò in grado quando è ora, mi va di farlo adesso che sono cosciente. Prima che durezza ci separi, ringrazio tutti quanti infinitamente. Quando sarò vecchio, punto e basta, la vita che finisce mostrerà il suo culo. Con la mia pensione di soldato si sarà consumato tutto il mio futuro. Darò del cretino a chi mi pare, dirò che tutti i libri non servono a niente e che 1000 secoli di storia non valgono un secondo vissuto veramente. Con chi ha combattuto per restare vivo, con chi mi ha aiutato mentre mi arrangiavo, con chi mi ha insegnato qualche cosa che risplende dentro di me. E poi magari un sabato di maggio ad una stella chiederò un passaggio e a tutti i prepotenti dirò ancora con me voi non l'avrete vinta mai. E poi una domenica mattina ancora sulla pelle il tuo profumo, a tutti i prepotenti dirò forte come voi non l'avrete vinta mai. Quando sarete vecchi, voi cosa pensate di fare? No? Boh, insomma, ma noi è ancora lunga. Non diventeremo mai vecchi. Sono esatto. I nostri figli che purtroppo sono vecchi, sono nati vecchi. Ecco. Noi ci divertiamo ancora, parliamo, appunto, ci salutiamo volentieri, facciamo compagnia, facciamo allegria. Esatto. Ci raccontiamo le cose vecchie, che sono sempre bei ricordi. E ci sarebbe tanto però da dire, perché parlare magari del carnevale di 50 anni fa, per esempio, com'era? Adesso lei ci voleva parlare di delle ceneri, vorrei accennare, nel senso che fino a mezzanotte e meno un minuto mi toccava mangiare, ma lo continuavamo il lunedì era la giornata delle ceneri di penitenza. Da bambino mi ricordo, bambino scolaro, mercoledì. Sì, certo. Era proprio il giorno che si arrivava in chiesa, assistevamo alla messa, ci mettevano un po' di cenere in testa e si scappava a scuola, insomma, era questo il discorso. Più grande non ricordo di essere andato a mettermi le ceneri, però ricordo che seguivo una tradizione del papà, che andavano con la compagnia, con un carro tutto aperto, e col cavallo andavano a mangiare da Righetto e Bisate in umido. Da Righetto a Quinto, sì. Che adesso è un ristorante che si è perso, il figlio Antonio non ha più portato avanti la tradizione del papà, ma per anni anch'io andavamo con un gruppo di 5-6 amici a due macchine, andavamo su e si mangiava a Bisate in umido o a Bisata in Torgoada fritta. Ecco, questa non l'ho mai sentita. No, neanch'io. In umido, no, quelle sì. Quelle più piccole. Ah, e in Torgoada. La ligava, faceva un nodo, insomma. E poi come la mangiavate? A fette, pointa e toccio e bisata. Solo quello si mangiava, così proprio per tradizione, insomma. Tradizione anche, che insomma, mangiavamo solo una festa, solo sciosi. Assieme con un po', neanche a pinzimonio, niente, ma carote crue e sedani, tanto per smaltire le cose. Dopo, per esempio, solo folpi, la serata dei folpi mi tocca mangiare di più, perché qui c'è, qui più grandi, le proporzioni sono sempre maggiori, insomma. E abbiamo cene a tema e baccalà, perché Zucchello che vendeva formaggio, andavamo da Tony Spin ancora a chi tempi là. Tony Spin, sì. E procurava il baccalà, lo comprava in pescheria da uno senza un braccio, perché stava macchina sotto la macchina, che aveva soppresso anche il braccio una volta. Ma Tony Spin, sono tramandati di figlio in figlio? No. Hanno cambiato gestione? Sì, gestione, sì. Dopo era anche Rosetta, signoriera, dopo... Dopo era Rosetta Zamboni e da Tony Spin, insomma. Però hanno mantenuto la... Sì, la stessa. Sì, sempre stesso locale, bello, simpatico, sempre che si va, sempre volentieri. E mangiavamo pointa e baccalà. E dopo era formaggio grana di Zucchero. Qui era la cena, si mangiava, insomma, rispettando la natura di adesso che si intingo, che si cucina. La semplicità della cucina italiana che cerca di farti bene il piatto, soltanto che tutti pettocetti di cagnolo. È vero. E mangiare, se mangiare un primo, mangiare neanche ancora due, magari, e mangiare un bel secondo, non si arriva più a mangiare il formaggio con tutti gli antipasti che ne dà. Se non dai a cena la sera da Procida, viene che ha fatto dei formaggi primo. C'è qualcuno che vuole con i marmellati, con cose, con il miele, e c'è qualcuno che deve, sì, mi dicono dove che voglio mangiarmi in ristorante, dove che voglio mangiare il formaggio. Metto andare a Parigi da Andrew per andare a fare una compagnia, andare a mangiare solo formaggio, insomma. No. Ma cosa mi dice? Cioè, noi abbiamo dei formaggi meravigliosi e non sappiamo presentarli, non c'è nessuna carta di formaggio. Sarà in Italia, credo che sia 10 ristoranti che forse l'avranno. E poi c'è poi in disuso, c'era quel vecchio detto: a bocca non si stracca, se no si vacca. Questo formaggio era un sarebbe formaggio latteria, no? Per mangiare tutto, anche mangiare. Mi piace il formaggio che dico verde, insomma. Che formaggio verde. Il papà mio mangiava quello più duro, proprio quello pesante, proprio a tocchi. e Margot Gonzola a me piace enormemente, magari di nostri teneri formaggi o così, di primi Casatella, di Montaggi, tantissimi. E però non manca questa capacità di arrivare a presentare, a valorizzare e mangiarli. E mangiarli. Durante un pasto. A me piace solo il grana. Reggiano, allora, tra l'altro. Intanto ho messo un parmigiano, mangio solo parmigiano e non reggiano. Parmigiano d'origine, sì. No, avevo Amorosa a Parma e ora. Si chiama parmigiano reggiano. Una volta era solo parmigiano. Insomma. Ah, esatto. Ho capito. E il discorso, no? Ma mi mangio le croste invece del formaggio. Cioè, nella mia moglie, quando che compra il pezzo del formaggio, assa ad biancare con scartosso, mi mette le croste proprio me le mangio proprio e una volta si metteva sotto sulla piastra economica, una volta sulle mura mi sono portato, mi ha dato Tony Basso quel formaggio, mi ha fatto pacchetti di croste di formaggio, perché io la grattava, poi vendeva formaggio. Una delizia che pochi conosce, evidentemente. Ho messo sulle cosine economiche, ho fatto strage, tutti voi a mangiare croste formaggio. Anche questa è una cosa che pochissimo conosciuta praticamente. Sì, sì. Perso, invece mi ammetto, mi trovo e ora mi mastego. Ma mi porto non so se da Muscoli fanno queste cose qui, non credo. Da Muscoli? No, da Muscoli si mangia, è una buona cucina, sì. E fai delle tradizioni, si mangia dei trip buoni, per esempio. Ma io ho conosciuto il... che è morto giovane poi. Morto giovane, io lo conoscevo. Sì, anch'io lo conoscevo. Era anche a Madonna Granda, mi pare che fosse. Era della compagnia di Madonna Granda, sì, a tempi, sì, sì, tempi io che furono. Juventino, ma era una cosa tremenda. Che una volta uno si è andato dentro e ha detto: me dai un panino a soppressa. Io lo guardavo e se mi chiedavo qua me calma. Era un personaggio d'altri tempi, come ce n'erano parecchi sulla piazza. Adesso sembrano praticamente scomparsi. Questo è un po' un Treviso che era altra cosa da quella attuale, e giustamente credo sia meritoria l'opera per mantenere e per ricordare questi tempi. Tempi trascorsi. E siamo anno bisesto. Che cosa comporta dalla tradizione l'anno bisesto? Bisogna star quieti, dice l'anno bisesto. Mi dice che moriremo, che sarà fine del mondo. Vedremo, sarà in qualche altra parte. Ognuno. Però adesso, con tutti i terremoti che sento, mi ha avuto un'idea che anche in Maya. Prima non si sapeva niente di terremoti, adesso... ogni giorno il te lo dice, lo scrive, sì. Il te fa vedere la televisione, ne rompe scatole. Io l'ho sempre sentito dire, però, che l'anno bisestile, ma io penso che sia proprio una dicitura. Anno bisesto, anno funesto. Ah, no. Sì, questa era la... Bisogna non pensarci, se no hai paura di tutto. Io che cerco di divertirmi a Carnevale, cerco di divertirmi con l'Ossada, qui a Merlo. Non ci pensiamo, effettivamente. Ma io sono nata nell'anno bisestile. Su serio? Sì, mi sono sposata nell'anno bisestile. Sono andata in pensione. L'anno Mago de Abbassa, Livio Scatuin, che fa sculture di legno, che è nato il 29 di febbraio. E allora compie gli anni una volta di ogni quattro anni. Ah sì, e difatti io mi sono sposata il 28 febbraio. Ogni quattro anni festeggio, vabbè. Architetto, siamo arrivati anche stasera alla conclusione. Ma così velocemente, mamma così piacevolmente. Avremo bisogno di ulteriori iniezioni di cultura trevisana anche per la prossima volta. Treviso è sempre bella, bisogna parlarne. Comunque, architetto, noi la ringraziamo con tutto il cuore, perché veramente ci ha fatto passare un'ora simpaticissima. Ringrazio voi. Molto piacevole. E allora, vi diamo naturalmente appuntamento alla prossima volta. Sì. E allora, come al solito, con Antonio, con l'architetto e con la sottoscritta, vi diciamo buonanotte. Buonanotte. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.